9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 18 di luglio e questo inizio di settimana lo dedichiamo a una riflessione intorno a come e dove voi stessi cercate le notizie, cioè come vi informate, come è cambiato nel tempo il vostro rapporto con questa fonte che sarebbe naturalmente degna di migliore attenzione e soprattutto dovrebbe sempre sforzarsi tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni di migliorare la propria professionalità, la propria accuratezza e la propria deontologia, nel senso di tentare di servirvi al meglio facendo pesare il meno possibile o almeno il più dichiaratamente possibile il proprio punto di vista, e cioè l'informazione, appunto. Come vi informate? Come è cambiato il vostro rapporto con i diversi mezzi di informazione? Lo spunto sarà rappresentato da una indagine che la scorsa settimana è stata presentata, un'indagine curata dal Censis, che ha per così dire messo in fila tutti i diversi strumenti di informazione attraverso i quali voi cercate di seguire l'evoluzione quotidiana dei fatti, cercate le notizie, cercate gli approfondimenti, cercate le opinioni. È stata presentata la settimana scorsa e mi limito a darne adesso semplicemente qualche indicazione, perché poi ne parleremo direttamente con i nostri ospiti, a cominciare da Giuseppe Roma, che è il direttore generale del Censis e che è collegato con noi, che saluto. Buongiorno e grazie a Giuseppe Roma. Allora, questa ricerca è stata presentata dai giornali con titoli più o meno che andavano nella direzione: le notizie le cerco da me, cresce internet, in calo i telegiornali. Perché? Perché il Censis per la prima volta ha rilevato che più del 50% delle famiglie utilizza il web come ricerca costante delle notizie e degli approfondimenti, e da questo punto di vista, quindi, negli anni dal 2002 al 2011, nei 9 anni di termine comparato dell'indagine, la percentuale di internet era cresciuta ed è cresciuta del 25,3%. Internet costituisce per il 53,1% delle famiglie italiane lo strumento attraverso il quale informarsi, poi in realtà quello preeminente resta la radio, viva la radio, noi siamo la radio, ma comunque la radio con l'80,2%, anche la radio in crescita col 14,8% negli anni 2002-2011, quindi la radio non è affatto uno strumento del passato. La penetrazione dei libri tra le famiglie italiane del 56,6% più 13,7%, quotidiani 66,6% più 10,5%, cellulare 79,5% di penetrazione più 4,2%, la televisione resta naturalmente lo strumento dominante per la presenza nelle famiglie italiane e per il riferimento nella vita quotidiana di ciascuno, con il 97,4% però in regresso rispetto a 9 anni prima, perché perde un 1,1%. Il secondo dato dell'indagine che riporto è quello della credibilità dei media, sempre rilevato dalle vostre opinioni, punteggi da 1 a 10, internet 6,55, radio 6,28, giornali 5,95, televisione 5,74, disponibilità a pagare le informazioni online no per il 75,5%, il sì lo dice il 25,1%. Certo, è vero che il dato fine dalla mia introduzione preeminente è quello costituito dall'aumento molto rilevante del ruolo esercitato da internet nell'informazione, però in realtà, come vedete, poi la percentuale di penetrazione e di diffusione di internet nelle famiglie italiane resta con questo 53% molto più bassa di quanto non sia nel resto dei paesi avanzati, e quindi in realtà attenti, c'è una trasformazione in corso, sì, ma la televisione resta ancora presente e la media è di 3 ore e 59 minuti per italiano giorno di fronte agli schermi, cosa incredibile, io ogni volta che guardo questo dato mi viene da riflettere. Sì, è ancora oggi la televisione i quotidiani sono in calo, secondo me, più di quanto dica questo dato, se uno va a vedere le risorse. Comunque, ecco, questo sono due delle indicazioni che io ho tratto, come molti dei miei colleghi, da questa indagine. Ora vediamo insieme ai nostri ospiti in realtà che cosa, per chi ha svolto l'indagine e per chi si trova a dover fare informazioni in diverse posizioni, qual è davvero la frontiera della trasformazione che è in atto giorno per giorno. E quindi, oltre a Giuseppe Roma, che abbiamo salutato e a cui adesso cederò la parola, abbiamo con noi Paolo Liguori, che è direttore di TG.com. Buongiorno Paolo Liguori. Buongiorno, buongiorno a voi. E Umberto La Rocca, che è direttore del Secolo XIX, il quotidiano di Genova. Buongiorno direttore La Rocca. Buongiorno a tutti. Allora, Roma, oltre a questi due dati, se dovessimo dare un inquadramento con qualche elemento in più rispetto a questa indagine, che cos'è che vi ha colpito? Ma il dato di fondo è il seguente: evidentemente il sistema dei media è presente nel sistema dei media una forte differenziazione, perché quando parliamo di televisione, vent'anni fa avremmo detto la televisione, quella che danno o la RAI o i privati. Oggi invece abbiamo tantissimi modi di accedere alla televisione. Questa differenziazione è il dato principale, che porta un'inversione quasi a 360 gradi di quello che è sempre stato la forza di ciascun media, nel senso che televisione, grande ascolto, esposizione continuata, i nuovi media attraverso internet, eccetera, eccetera, cioè sembrava che la persona fosse attratta dal mezzo. Invece oggi è esattamente il contrario: il mezzo è legittimato dalla sua funzione, perché la comunicazione non è più un sistema a parte. Viviamo, produciamo, consumiamo, e poi c'è anche il consumo di comunicazione. La comunicazione è entrata totalmente nella nostra vita quotidiana, siamo a contatto con i media dalla mattina alla sera, e quindi a questo punto scegliamo quello che ci è più funzionale, quello a cui crediamo di più. La novità più forte è che non è tanto, naturalmente la televisione resta il mezzo più importante come utilizzo, però se entriamo nel merito di come lo utilizzo, cioè sono esposto alla televisione o sono qualcuno che dalle immagini, dalle notizie, dall'intrattenimento prende anche qualcosa, perché i due media che sono riusciti, come dire, i più innovativi sono internet. Naturalmente la forza del digitale è una cosa recente, una cosa che si esprime in mille modi. Posso accedere al digitale dal mio computer, dal telefonino, posso vedere i film o posso sentire una trasmissione anche dopo che è avvenuta, perché la scarico, cioè l'enorme funzionalità e anche la facilità di accesso con tanti mezzi, ma soprattutto anche la radio, che invece è il mezzo più vecchio. Questo a me ha fatto capire che c'è completamente una inversione di tendenza. Prima c'era, come dire, una specie di progressione, no? La televisione ha soppiantato la radio, il telefonino e internet dovrebbe poter soppiantare la televisione. Vi ricordate tutti quei temi, la convergenza, avremo un unico terminale mobile con cui... Non è vero niente. In realtà internet e radio hanno l'immediatezza, per esempio, dell'informazione. Come su internet io vedo in poco tempo quello che succede, questo succede anche alla radio, dove vengono date tutte le notizie, dove c'è meno filtro, dove c'è più equilibrio, dove si spiegano più le cose, dove puoi sapere di più. Questo è stato molto premiato, indipendentemente dal fatto che la radio l'ha inventata Marconi un secolo fa, non so se è chiaro, mentre prima c'erano tutta questa ansia da tecnologia, e la tecnologia che vincerà, io ti offro l'ultimo telefonino e tu allora seguirai le notizie, i telegiornali, pure i film ci vogliono far vedere sul telefonino. Non è così. Questa è la grande novità, che pone un problema di grandissima attualità, visto che hanno arrestato qualcuno che usava male della comunicazione, e cioè quella della credibilità, quella del fatto che i professionisti di questo settore, soprattutto dell'informazione, devono mantenere un loro standing, mentre noi diciamo dal ruvido cronista, che era quello che faceva il quotidiano, che andava in giro, eccetera, noi siamo passati a degli showman che stanno dentro l'informazione non per spiegarla, non come fa lei per esempio per l'economia, ma insomma non per spiegare, per dire, per dare come dire, tutto il quadro, ma diventano dei protagonisti, quindi invece di rappresentare la realtà ormai ci sono alcuni mezzi di informazione che sono la realtà, e questo è stato un po' punito secondo me dagli italiani. Allora, una molteplicità di temi nuovi in queste parole di Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. La convergenza multimediale, come si vede nella concreto sviluppo del mercato quotidiano, ha preso una piega che è un po' diversa da quelli che profetavano la convergenza assoluta in un unico monoterminale, e di volta in volta poi ci sono diverse manifestazioni che ci portano di fronte a sviluppi applicativi, a software, a modalità organizzative delle imprese editoriali impreviste. Pensate ai tablet e a come fanno fare un balzo in avanti in pochi mesi alla consultabilità online dei quotidiani, riponendo il problema di che cos'è a pagamento e se va fatto nelle stesse modalità che venivano organizzate e gestite coi tempi e coi modi della carta stampata da parte di un quotidiano, quando invece poi la gente inizia a consultarlo con il polpastrello e rimanendo a sfogliarlo in realtà come se fosse carta stampata, cosa che a me colpisce molto e mi sembra un po' fuori dal tempo e fuori dal modo. Ma comunque la convergenza ha delle sorprese e non va nella direzione unilaterale immaginata all'inizio da menti troppo semplici. Dall'altra parte però ciò che è vecchio non per questo viene superato, e ciò che è nuovo a volte stenta ad affermarsi, ciò che è nuovo a volte pone problemi sulla credibilità. Per questo Spider-Man Truman che oggi trovate su tutti i giornali e che è l'esempio della rapidità con cui sulla rete e su internet gli italiani si informano, e l'anonimo informatore dei privilegi della casta dopo, dice lui, 15 anni di precariato alla Camera o al Senato presso un deputato o un senatore, e che inizia poi a documentare su tutti gli sconti i privilegi della casta dei politici, e in poche ore passa dall'anonimato a 155.000 contatti e tutti rimbalzano quello che dice lui. Però è credibile o non è credibile? C'è deontologia nel mascherarsi dietro l'anonimato oppure no? Ecco, Umberto La Rocca, direttore di un quotidiano di grande storia e tradizione, si è trovato poi sul chiamato a doverlo anche rilanciare, e il problema è a quel punto come si fa con i giornalisti e la maniera tradizionale organizzativa di un giornale a tentare di tenere conto di tutte queste cose che poi il Censis mette in fila nella sua indagine? Ma guarda, è difficile naturalmente, ed è difficile anche per un giornale come quello che dirigo io, che è un giornale molto radicato in un'area geografica delimitata, la Liguria, e che in questo ambito sta recuperando copie, quindi, come dire, non dovrei lamentarmi, eppure le difficoltà sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti. L'esperienza a me ha insegnato due cose. La prima: ormai il giornale di carta viene acquistato in massa soltanto quando ci sono grandi eventi rilevanti che toccano da vicino i lettori. Faccio un esempio: l'alluvione dell'anno scorso a Genova, quella lì per 4-5 giorni ti porta tantissime copie e tantissimi lettori. Ma altrimenti, per quel che riguarda l'informazione quotidiana, non c'è dubbio che internet sta, e in questo io dissento un pochino dall'analisi di Roma, sta soppiantando secondo me l'informazione di carta. La seconda indicazione che traggo da questi primi due anni al secolo è che il lettore compra il giornale, acquista il giornale quando sente che quell'1,20 gli dà qualche cosa di utile. Cioè è uno strumento per la sua vita quotidiana, altrimenti non lo compra. Faccio ancora qui un esempio: se noi, quando noi abbiamo deciso, abbiamo fatto, visto che l'azienda pubblica dei trasporti doveva tagliare i costi e quindi metteva soltanto su internet gli orari degli autobus, i nuovi orari, noi abbiamo fatto un accordo e li abbiamo pubblicati noi su carta. Allora questo, in una città che ha un'età media abbastanza avanzata, paga immediatamente con migliaia e migliaia di copie. Ma il problema è che anche su questo internet si sta attrezzando. Faccio un terzo ed ultimo esempio sull'elemento che è stato per anni cavallo di battaglia dei giornali popolari, e cioè dove risparmiare. Quindi quello è il classico della cronaca cittadina utile, no? L'indicazione sui mercati dove puoi trovare i beni alimentari a prezzi migliori, eccetera. Se pensiamo soltanto che oggi esistono dei siti che ti localizzano il tuo computer, tu riempi sul web il carrello della spesa e loro automaticamente ti dicono qual è il supermercato più vicino dove puoi risparmiare se vuoi comprare quelle cose, capisci bene che il compito della carta stampata diventa sempre più difficile. Ma, ed è l'ultima cosa che vorrei dire, il dato che mi colpisce di più non è tanto quello della convergenza o mancata convergenza, quanto quello della credibilità. Perché? Perché che internet venga considerato, anche se di poco, più credibile dei quotidiani, è un fatto che ci deve far riflettere assai, perché come dicevi tu, non è internet non è il luogo della credibilità in se stessa. Citavi l'episodio di ieri, l'episodio ed è, da quel punto di vista è molto indicativo, cioè chi è questo signore? Non si sa. Non si sa perché lo fa, non si sa quanta credibilità e quanta verità c'è in quello che dice, spetta appunto i giornali a verificarlo. Però il dato di fatto è che nel frattempo la reazione immediata arriva su internet e non arriva più sui giornali di carta. E questo dipende secondo me da due fatti. Il primo fatto è un assetto proprietario dei quotidiani in linea di principio che lede gravemente la loro credibilità. Perché i lettori a lungo andare si accorgono che i quotidiani sono proprietà di grandi gruppi industriali e che quindi in una certa percentuale obbediscono a degli interessi che non sono interessi generali diffusi, ma sono interessi parziali, e questo lede molto la credibilità. Il secondo elemento che lede, e chiudo davvero, la credibilità dei giornali è che purtroppo sembra paradossale, ma meno vendono, meno diventano credibili, perché hanno meno risorse a disposizione da investire sui giornalisti che verificano, sui giornalisti che fanno inchieste e così via. Questo, insieme all'aumento dei costi e all'imparagonabile dei costi delle materie prime, è il vero problema dei giornali di carta oggi, secondo me. Naturalmente io nella graduatoria prima, quella che abbiamo visto, la penetrazione come delle famiglie italiane, comunque come per la radio, e naturalmente ne siamo fieri e felici, c'è evidentemente il digitale non è affatto una tendenza al declino, ma anzi al rilancio, come si vede, il rilancio maggiore oltre alla diffusione ovviamente molto più elevata che ha internet nella differenziale degli ultimi 10 anni alle spalle. Io non sostenerei però questa specie di vittima sacrificale che c'è da anni nell'andamento del mercato, cioè quello dei giornali quotidiani in Italia, che è vero che hanno percentuali sul totale delle risorse di raccolta, sul totale del mercato dell'impresa della comunicazione italiana, che ha il segno meno i quotidiani periodici da anni a questa parte, al di là della crisi. È una tendenza che viene prima, è una tendenza che ci dice di una crisi strutturale del modello organizzativo di questo tipo di impresa, certo. Però poi restano per il 66,6% degli italiani lo strumento con il quale informarsi. Quindi il problema è appunto, per voi direttori è come dire, bisogna trovare un modo. Io non so se sia compatibile, la mia opinione te lo chiedo fuori dai denti, ma non perché ti voglio fare polemiche, è compatibile col nostro contratto il tentativo di spiegare ai propri colleghi che bisogna avere i tempi contemporanei di un'edizione digitale che non può far altro che rilanciare notizie, poi chiedergli dei livelli di approfondimento nelle ore successive sempre sul digitale, e chiedere contemporaneamente anche di lavorare sull'edizione stampata che ha i tempi tradizionali per cui esisteva il nostro contratto. Secondo te si può fare, Umberto La Rocca? Ma guarda, noi lo stiamo facendo al secolo XIX, con grande difficoltà ovviamente di ogni genere, perché comunque è un'organizzazione del tutto nuova, la stiamo sperimentando, ma la prova decisiva sarà questo autunno, a metà dell'anno prossimo ti risponderò sì o no. Quello che posso dire è che è incompatibile con il nostro, non tanto con il nostro contratto, ma incompatibile con una situazione di mercato corretta, il fatto che i giornali, perlomeno i giornali che lavorano secondo le regole, sono legati a delle condizioni contrattuali molto molto pesanti dal punto di vista del costo del lavoro, mentre invece il fiorire di siti locali, siti di informazione di ogni genere fanno lavorare preferibilmente in nero, in condizioni impossibili, ragazzini che hanno voglia di entrare in questo mestiere e non trovano altra strada. Questa è una vera distorsione del mercato e su questo le organizzazioni degli stessi giornalisti e l'ordine hanno delle responsabilità enormi di mancato controllo. È verissimo, perché noi viviamo una realtà di vergognoso dualismo, dobbiamo ammetterlo. Chi ha la tessera di questo mestiere giornalista in tasca non può che ammettere. Io da anni sono, ohimè, turpemente scandalizzato del fatto, io poi non sono dipendente, me la batto da solo per chi vuole i miei mestieri, i miei servizi, però è un fatto scandaloso come la maggior parte di noi che per lavorare da decenni, insomma, ha dei trattamenti, dei diritti eccetera, lo fa galleggiando su un amplissimo esercito di giovani precari sfruttatissimi, che sono forse coloro grazie ai quali poi c'è la concorrenza in molte parti, nelle parti meno regolate, disciplinate, e che comunque abbattono il costo medio, che per noi invece è molto elevato perché si sobbarcano noi. E quindi questa è una situazione sulla quale effettivamente noi che parliamo dei diritti dei giovani a volte dovremmo per primo guardarci allo specchio. Io saluto e ringrazio Umberto La Rocca, che ha un impegno ora in pubblicità, e poi dopo con Paolo Liguori parliamo invece della, per così dire, trasmigrazione che la televisione deve compiere. La televisione è quella che nel passaggio al digitale in Italia ha preso una via, lo switch off pressoché obbligato. Ciò che non funziona invece per i servizi a banda larga, dove lo switch off obbligato non si può fare perché non si possono obbligare i players ad abbandonare ciascuno la propria infrastruttura prima dell'ammortamento finale e del fatto di estrarre tutto il valore ciascuno a modo suo. Per la televisione abbiamo scelto un modello diverso, e questo modello diverso ha da una parte enormemente innalzato l'offerta televisiva, dall'altra voglio chiedere a Paolo Liguori, vecchio giornalista di razza anche lui, come l'innalzamento dell'offerta con il digitale in realtà cambia il DNA di questo mestiere per fare informazione e comunicazione attraverso la pluralità dei canali digitali rispetto alla vecchia televisione analogica e al tradizionale vecchio duopolio tra informazione pubblica del servizio pubblico e informazione del duopolista. Allora, torniamo a questa indagine internet che prende corpo e guadagna spazio come strumento per gli italiani di assumere informazioni e notizie, e anche soprattutto ai vertici della graduatoria della credibilità, malgrado che internet sia con le sue fonti aperte spesso corre il rischio di non offrirvi garanzie, per così dire, certificate. Non vi è una struttura di responsabilità dietro, ma vi è quella naturalmente della rapidità, della velocità, della libertà, e questo naturalmente gli italiani dichiarano di preferirla, con tutti i rischi ma anche con le sfide che questo comporta a un'industria, perché è un'industria oltre che un grande diritto democratico, quella della comunicazione e dell'informazione, che in questi anni è profondamente mutata. Io ricordo tutto il totale dell'industria della comunicazione, sommando le diverse branche in cui si divide, e quindi la televisione, la radio, il cinema, l'home video, i libri, la musica registrata, la pubblicità sui mezzi classici, le TLC fisse e mobili per i servizi informativi e di comunicazione che passano attraverso questi operatori, informatica e videogiochi, vale più o meno nel nostro paese, valeva più di 100 miliardi prima dei 2 anni di crisi, poi è sceso, ha preso una brutta botta, resta abbondantemente sotto i 100 miliardi nel 2010, in questo 2011 stenta più di quanto stentasse nel 2010 a riprendersi sul 2009, e su questi 100 miliardi, che vale più o meno un po' meno di 100 miliardi il totale di questi settori dell'industria della comunicazione italiana, la pubblicità sta più o meno sui 9 miliardi, anche qui stentano per effetto della crisi, per effetto dei mercati, del mercato interno che stagna sui consumi in questi anni, ma noi sul totale ovviamente della distribuzione, della raccolta pubblicitaria di questi 9 miliardi abbiamo il record di concentrazione per mezzo di informazione sulla televisione, perché abbiamo la percentuale più elevata della totale della raccolta pubblicitaria italiana concentrato sulla televisione, proprio per la maniera in cui il sistema televisivo italiano si è evoluto nel duopolio e così via. Allora chiedo a Paolo Liguori, Nella sua esperienza di televisione e di informazione di vecchio stampo e poi di migrazione della televisione dal vecchio impianto analogico dei due concorrenti alla pluriofficialità l'offerta digitale, come si coniuga insieme il fatto di dover fare informazione coi tempi del digitale e avendo come concorrente internet ma in televisione, e con i costi che nella pluralità dell'offerta non è detto che consentano la concentrazione di mezzi televisivi che una volta era propria delle grandi redazioni dei TG contrapposti, delle reti ammiraglie, dei duopolisti da una parte e dall'altra. Col digitale bisogna essere più capaci, più bravi, più rapidi, più radicati sul territorio per utilizzare i tempi della televisione, della pura offerta digitale, e contemporaneamente risparmiare di più. E come si fa, Paolo Liguori? Guarda, il punto centrale è sempre questa discussione su internet. Io sai che da 10 anni lavoro, diciamo, in una testata che usa internet coniugandolo con la televisione, e mi sono sforzato di fare in questi anni esattamente quello che prima diceva La Rocca, e cioè di far lavorare una redazione giornalistica contemporaneamente su internet, sulla televisione e naturalmente anche su tutti i modi con cui queste cose si diffondono. Allora, io penso che ci siano due questioni nella domanda che hai fatto te, una principale e una diciamo evidente sotto gli occhi di tutti ma più secondaria. Parto da questa seconda. È ovvio che l'offerta digitale, che il digitale all'interno dei modi con cui comunicano i mezzi di comunicazione, ha allargato l'offerta, e che oggi la piattaforma digitale offre molto più ascolto e molte più possibilità di scelta di quello che offriva una volta la televisione analogica. Questo ha provocato due fenomeni: il bacino del pubblico è aumentato ma si è frammentato, e questo crea problemi, perché bisogna cominciare a pensare ad una comunicazione specializzata, bisogna cominciare a specializzare una comunicazione mirata e diretta a target differenziati, non soltanto quindi la grande televisione generalista popolare, ma la televisione profilata sugli utenti. E quindi nella televisione sta succedendo lo stesso, la stessa cosa che sta succedendo nella società: ognuno si sceglie quello che vuole vedere molto più di prima, e questo per chi lavora ai programmi televisivi, all'informazione televisiva, appunto comporta dei grossi problemi, come dicevi te prima, di velocità, di precisione, di individuazione del target, degli orari, dei modi con cui si può vedere la televisione. Ma il problema principale, però, da cui tutto dipende, è questa questione di internet, che in Italia non è messa bene a fuoco. Vorrei proprio azzardare una mia, diciamo, interpretazione. Internet non può e non deve essere considerato un mezzo tra gli altri. Internet è una modalità d'uso che ormai sta attraversando tutti i mezzi: la televisione, la telefonia mobile, l'uso dei tablet, l'uso di un modo differente di far viaggiare la comunicazione dipende dal fatto che internet non è un mezzo ma un modo per comunicare, un modo che sta prendendo, come ti dicono i tuoi dati, quelli da cui siamo partiti, molto piede, e che se in Italia prende meno piede degli altri paesi non dipende da una cultura dell'utente o del pubblico, ma dipende dalle infrastrutture. Le infrastrutture in Italia sono molto scadenti, sono molto scarse, siamo molto indietro sulla banda larga rispetto ad altri paesi. Basta uscire dai confini italiani, ma che si vada verso la Svizzera o che si vada verso la Francia o la Spagna, è la stessa identica cosa: la diffusione del wireless, la diffusione del wifi, la diffusione della banda larga è molto, ma molto, ma molto più estesa che da noi. Questo consente a chiunque abbia in tasca un mezzo mobile che può comunicare attraverso la rete telefonica di avere lì, quando vuole, dove vuole, in qualsiasi modo vuole, e a prezzi molto economici, perché si tratta di abbonamenti e non sono più legati al traffico telefonico queste strutture, l'informazione che vuole. Ecco, allora io sono convinto di questo e mi sto muovendo in questo senso, cioè stiamo cercando di fare un passo avanti, ancora più avanti, cioè da un modo di comunicare di convergenza tra televisione, internet e comunicazione tradizionale, stiamo andando verso un sistema che penso riusciremo a mettere in opera in autunno, ma abbiamo già, come si può dire, riconvertito a questo sistema centinaia di giornalisti che già lavorano in quelle modalità che, insomma, tu definivi un po' extra contrattuali, ma che ormai sono usuali, quindi lavorano per fare un certo tipo di informazione a certe ore e un altro tipo di informazione ad altre ore per tutta la durata del loro orario di lavoro e dell'orario contrattuale, non il modo contrattuale, il modo uno lo sceglie, il problema è rispettare i termini del contratto nel senso dell'impegno, e quando hai rispettato il tuo arco d'impegno, dentro quest'arco d'impegno chi organizza meglio il lavoro è più bravo, insomma. Io la penso così perché sono in questo senso molto liberale, comunque questo faccio da 10 anni. Ebbene, noi stiamo andando un po' più avanti in questa modalità per creare un sistema di comunicazione che vada in un canale televisivo, che vada sui siti internet, che vada sugli smartphone, sui tablet, contemporaneamente e guardandosi l'uno con l'altro, cioè facendo in modo di interagire anche con il pubblico. Ultima questione, e qui lo devo dire perché è venuta fuori, perché io parlo e ho grande fiducia anche nell'interazione con il pubblico, cioè i contenuti derivati dagli utenti che possono entrare nel sistema di comunicazione tradizionale. Ho grande fiducia perché non credo affatto che la credibilità di internet sia inferiore a quella degli altri mezzi di comunicazione, pur essendo internet non appunto un mezzo di comunicazione ma un modo di comunicare. E l'ha detto La Rocca molto bene, anche qui sono d'accordo con lui. Oggi dietro un editore c'è sempre un lato oscuro, se vi permettete questa parola, per il pubblico. E dietro internet si sta arrivando ad una chiarezza sempre maggiore. Oggi i social network garantiscono la foto, la firma, i gusti. Il pubblico comincia a conoscere, a parte adesso l'episodio a cui ci stiamo riferendo oggi sulle cronache, ma che dura proprio il tempo che dura, e che già nel momento in cui se ne parla c'è chi dice chissà chi è questo. Ma perché lo dice? Perché ormai in internet siamo abituati a firmare le cose, cioè non c'è nessuna opinione che non venga praticamente legata ad un profilo di una persona che su Facebook ti dice la sua e compare non solo quella opinione ma anche tutte le altre opinioni che lo riguardano. Quindi io trovo che da questo punto di vista addirittura la credibilità di internet può diventare molto maggiore, e già lo è in qualche modo agli occhi del pubblico semplice, comune, rispetto a quella di un editore oscuro. E qua il caso a cui tu hai fatto riferimento, cioè l'ultimo caso che ci viene dall'Inghilterra ma che riguarda un gruppo che è radicato in tanti paesi, compreso il nostro, è proprio un caso di oscurità della quale non ci eravamo minimamente accorti, ma è bastato sollevare una pietra e si è scoperto, insomma, che un gruppo, il più grande gruppo di comunicazione mondiale, usa delle modalità pazzesche, oscure, assolutamente pericolose addirittura per la democrazia di alcune delle più grandi democrazie del mondo. Quindi come vedi, mi pare anche su questo che si sta andando in una direzione di trasparenza. Allora, Giuseppe Roma, se internet però è una modalità, è una di comunicazione e non è uno strumento di comunicazione, non è che per caso tutto ciò che stiamo tentando di annettere a internet in termini di maggiore democrazia, e quindi diventa uno strumento, no? Diventa una modalità, maggiore capacità di trasparenza nel senso di apertura a un vaglio di centinaia di migliaia di persone in tempi rapidi, che consente di mettere nel mirino e di accertare in tempi più rapidi con questo strumento di vaglio eventuali parti oscure degli interessi editoriali o degli interessi impropri che stanno dietro l'informazione. Ecco, ma se è una modalità e non è uno strumento, non è che per caso lo stiamo mitizzando, sbagliando a metterlo sullo stesso livello di quelli che invece sono strumenti e non modalità? Beh, certamente è uno strumento, però è uno strumento che ha un'offerta informativa sua propria e che soprattutto tiene conto, e bisogna che teniamo conto di un altro fattore, della spaccatura generazionale, cioè i giovani oggi si comportano nella comunicazione e nel trattenimento in maniera molto diversa da tutte le altre generazioni. Se prendiamo per esempio il modo di informarsi, è chiaro che i telegiornali costituiscono sempre la fonte principale, poi ci sono i giornali radio e così via. Se invece guardiamo fra i giovani, i telegiornali praticamente hanno una quota di pubblico pari a quella dei portali informativi che ci sono su internet, e quindi ormai sono molto vicini. È chiaro che internet è una modalità di cui si possono giovare tutti. Io per esempio penso che il tablet sia una buona soluzione per i quotidiani per arrivare nelle case degli italiani la mattina alle 7 per poter vendere anche su quel supporto a costi molto bassi in maniera molto facile e persino per poter essere letti meglio dal punto di vista proprio fisico, perché lo puoi allargare il tablet e c'hai un carattere come ti pare. Quindi è vero che è uno strumento, però è anche vero che è una modalità propria, e il tema della credibilità e del pagamento sono due temi che si stanno via via sciogliendo, nel senso che è vero, in rete c'è molta spazzatura, ma c'è anche una capacità di autodepurazione, non è altissima e c'ha moltissimi svantaggi. L'informazione che circola in rete è molto più appiattita, non aiuta l'apprendimento critico. Io penso che i quotidiani, anche tra radio e televisione, abbiano comunque un imprinting culturale diverso, però è pure vero che è la modalità più trasparente. E questo della trasparenza, certamente nel nostro paese, è un problema che riguarda le televisioni, che riguarda i quotidiani, viene esplicitamente nella nostra indagine rilevato come il mondo dell'informazione sia spesso legato a poteri politici, istituzionali o anche finanziari poco chiari, e quindi questo diventa in Italia perlomeno un problema molto serio. Ma d'altronde queste tematiche, per esempio per quanto riguarda la carta stampata, sono tematiche che riguardano tutto il mondo. Insomma, la settimana scorsa l'Economist ha fatto il suo inserto proprio sulla news industry, perché perdono i quotidiani da tutte le parti. È chiaro che a questo punto le strategie possono essere diverse, però teniamo conto che, essendo un supporto internet, è anche però un veicolo di comunicazioni che non sono soltanto informazione e intrattenimento. Cioè, noi abbiamo le prime 10 cose che si fanno su internet, solo 2 sono scaricare musica o scaricare film, tutte le altre sono anche di tipo molto pratico, che c'entra anche, se vogliamo, poco con l'informazione. No, cercare soluzioni a vita quotidiana, viaggi, turismo. Questa interconnessione che ce lo pone anche come più vicino. Io sto davanti al computer perché sto lavorando, perché certo, sto facendo altre cose, e quindi posso andare immediatamente a informarmi se 5 minuti voglio distrarmi, oppure compro un biglietto aereo, e questa continuità di informazione. Allora è evidente che l'industria dei media ha la necessità di adeguare progressivamente il suo sistema produttivo, il suo sistema di offerta a una domanda che gli è scappata di mano, diciamo francamente, perché una volta aspettavi, non so, il quotidiano che arrivava la mattina, le edicole aprivano alle 5, andiamo a vedere che è successo, magari avevi sentito un telegiornale, la radio, però lì trovavi l'approfondimento. Adesso chiaro, i tempi sono molto più compattati. Collassati. Io devo ricordare poi che anche il caso da cui uno dei due casi, oltre naturalmente allo scandalo del gruppo Murdoch che abbiamo citato e che è ricorso sia sulle parole di La Rocca che di Paolo Liguori che sulle mie, in realtà questo poi caso di Spider-Man Truman e questo anonimo che informa sui privilegi e i costi della casta dopo, dice lui, 15 anni di precariato alla Camera, è a propria volta nato perché internet ha offerto una pluralità di diversificazione dell'offerta giornalistica, perché nasce in quanto segnalato da un sito, ci tengo a dirlo, www.linchiesta.it, l'inchiesta tutto attaccato e con il K invece che CH di inchiesta, che vi invito ad andare a vedere. È un sito fatto da giovani colleghi, parla di approfondimento giornalistico e soprattutto molto di economia e finanza, e ha raccolto soldi proprio da soci finanziatori ed è online. Li conosco perché alcuni sono giovani colleghi che mi sono tirato su, con cui ho lavorato insieme anni fa, e quindi li stimo e li appoggio e li apprezzo molto, che parlano di economia e finanza proprio al di fuori degli ombrelli pesanti, molto pesanti, che condizionano i grandi gruppi informativi italiani. Anch'io ne so qualcosa in piccolo, nel senso che quando ho diretto Quotidiano Economico Finanziario, poi alla fine me l'hanno fatto chiudere, guadagnavo copie, ma me l'hanno fatto chiudere perché rompevo le scatole, succedeva così, questa è la storia del libero mercato. E quindi conosco quei colleghi, e quel sito è stato quello che ha segnalato Spider-Man Truman, che poi è diventato in poche ore conosciuto i picchi, attraverso questa diversificazione dell'offerta giornalistica, che è fatta anche dichiarando punti di vista e interessi che spesso invece i giornali generalisti tendono tendono a dipingere invece dietro l'obiettività, il fatto che loro sono al servizio degli interessi nazionali, loro sono contro gli interessi che non perseguono mai. Io a questa roba non credo, nel senso che non credo che bisogna cercare le informazioni fiat sulla stampa, è ovvio, i colleghi della stampa lo sanno e basta che sia dichiarato. Non credo all'interesse oggettivo del Corriere della Sera, non credo affatto, credo al fatto che ci siano opinioni molto diverse dei colleghi autorevoli che stanno al Corriere della Sera, che non è che siccome c'è il Corriere della Sera dietro allora diventano per questo i liberali per definizione, tantomeno credo al liberalismo su Adisan di Repubblica del suo fondatore e che siano lontani e diversi dagli interessi del loro editore. Basta che si sappia, per esempio in piccolo il mio sito, non l'avrei mai detto, www.chicago-blog.it è diventato il primo sito italiano per traffico e accessi, io, il mio è un sito di punti di vista e approfondimenti dichiaratamente, si chiama così, liberisti, mercatisti, offertisti, mai avrei immaginato di diventare il primo sito in Italia, e questo la dice lunga sul fatto che il pluralismo con i punti di vista dichiarati secondo me serve a ciascuno poi a collazionare, non a collezionare ma a collazionare, cioè a paragonare approfondimenti diversi. Ecco, questo è sicuramente una possibilità, una ricchezza che la velocità e anche gli strumenti finanziari minori necessari per internet consente. Siamo molto in ritardo col minuto sull'informazione stradale. Subito sms ad ascoltatori che dicono: ripeti il nome del sito che ha segnalato a Spider-Man Truman, si chiama www.linchiesta.it, l'inchiesta col K invece che con il CH, il mio si chiama www.chicago-blog.it, però quello che conta è che il mio, lo ripeto spesso, quello che conta è segnalare il loro, perché sono colleghi veramente validi, ciascuno dei quali viene da grandi giornali, quindi insomma non hanno messo anche in discussione la propria stessa sicurezza professionale. Ecco, non è facile uscire da grandi giornali per dire mi faccio un sito internet in cui scommetto su me stesso e i finanziatori scommettono su noi stessi. Sentiamo alcune chiamate di ascoltatori. Renato da Padova, prego Renato. Buongiorno Giannino, lei poco fa secondo me ha toccato il punto fondamentale, nel senso che in rete ci sono indubbiamente montagne di informazione, ma sono informazioni in cui è difficile per un cittadino qualunque capire qual è l'opinione e qual è il fatto. Cioè io posso attingere a delle informazioni di tipo economico, ma rischio di avere subito l'opinione invece che il fatto. E credo che l'unica forma di difesa di chi vuole informarsi sia di avere dei punti di riferimento certi. O quantomeno affidabili. Io per esempio, se devo informarmi di politica o di politica economica, cerco lei, cerco Cisnetto, cerco altri giornalisti di cui mi fido, non perché non abbiano delle opinioni che possono essere anche diverse dalle mie, ma che so che prima dell'opinione mi danno il fatto, il dato. E questo secondo me è fondamentale. Lei per esempio ha fatto recentemente una trasmissione con l'onorevole Baldassarre, io di Baldassarre sapevo poco o nulla, però avete indicato un elaborato che io mi sono scaricato da internet, in cui sul debito pubblico, sulle come nascono le finanziarie e compagnia cantando, c'erano dei dati. E in nessun talk show televisivo lei sentirà citare dei dati affidabili, perché ognuno tirerà l'acqua al proprio mulino dandoci le interpretazioni. Questo Renato sono d'accordo, che è un po' una malattia di questo paese in cui non c'è una più convergenza quantitativa nel descrivere i fenomeni prima di poi appellarsi ciascuno al proprio punto di vista dichiarandolo. Però e così per esempio in politica estera, adesso sì, salto di palo in frasca, io per esempio se voglio sapere qualcosa degli Stati Uniti ascolto Maurizio Molinari, se voglio sapere qualcosa di Medio Oriente ascolto, cioè ho selezionato le sue fonti, esatto. E secondo me potrò sbagliare naturalmente. E a quel punto Renato, lei però a quel punto usa le diverse modalità, cioè usa internet se ne ha bisogno in tempo reale per capire e va a scaricarsi i punti di vista di questo e di quello. Ecco, quindi questa è la modalità, per così dire, autoprodotta, che consente internet. Questo lo dico perché alcuni a casa dicono, continuo a non capire perché internet è uno strumento e gli altri invece no, perché le modalità organizzative delle informazioni e delle comunicazioni, cioè da quelle tradizionali ai giornali, a quelle televisive, a quelle radiofoniche, sono un conto. Altro conto è il puro strumento, cioè le onde radio e internet. Ecco, internet è uno strumento secondo me, quindi Stefano si auto-organizza. Sentiamo rapidissimamente proprio Flash, Matteo da Milano, proprio Flash. Matteo, c'è ancora? No. Non c'è più? No, ci sono, eccoci. Mi sentite? Sì, dica. Allora, quello che volevo dire e tornando al discorso della carta stampata, se io fossi il direttore di un giornale non mi preoccuperei del fatto che vendo meno copie di giornali stampati, perché è comunque inesorabile, ne sono convinto. Bensì? Invece mi preoccuperei di cercare un modo, un metodo di fruizione, mettendomi dalla parte del fruitore delle notizie, sia per quanto riguarda i tablet, che volentieri sarà Matteo, ho capito al volo, però le spiego il problema. Per un direttore di quotidiano, ciò che deve fare quando l'editore lo chiama, cioè quasi sempre chiedendogli, guarda che qui le revenue, il fatturato, la raccolta da copie in edicola è diminuito, la copia di abbonati è diminuito, e quindi il totale di quello che raccolgo sui nuovi media è sempre troppo poco rispetto a quello che ho perso, e tentare di combattere sia sui vecchi canali distributivi, aggiungendo nuovi canali distributivi, che però sul totale delle risorse non fanno il totale del venduto in edicola e abbonati e vecchi abbonamenti. E il problema è che per fare questo il tuo maggior ostacolo, nella mia esperienza dei quotidiani grandi organizzati, si chiama contratto dei giornalisti, perché i colleghi dicono: io tutta questa roba nuova nello stesso arco temporale non la faccio. Guarda, questo tema della modalità plurale, quando si perdono risorse molto rilevanti dei vecchi canali distributivi e bisogna tentare di andare sui nuovi, diventa il motivo vero per cui i vecchi giornali rischiano di morire. O i miei colleghi aprono la testa, il problema non c'è solo per gli operai della Fiat, mi dispiace dirlo, si fanno un mazzo tanto. I giornalisti probabilmente lo stesso mazzo non se lo sono mai fatti, eppure hanno le modalità molto più chiuse di quelle che poi rimproverano ogni giorno alla FIOM di non voler accettare. Conclusione della giornata di oggi, grazie a tutti, appuntamento a domani in Nazionale Radio.